conquiste del bene e opere di apostolato, l'influsso di anime buone. Le persecuzioni di cui soffrì il servo di Dio nei suoi primi anni di apostolato gli vennero da alcune persone ignoranti, cieche o perverse. Come abbiamo già constatato, nel campo a lui affidato dalla Divina Provvidenza non vi erano solo rovi. Al contrario, si svilupparono anche fiori di innocenza e di pietà, che non erano né senza bellezza né senza profumo, e a questi il santo si dedicò con amore per coltivarli ed aumentarli. Fin dai primi tempi aveva pensato di riunire le anime migliori che, formando col sacerdote il cuore della parrocchia, lo avrebbero aiutato nella sua opera di penetrazione e di conquista. Quel povero curato di campagna, assai prima dei suoi contemporanei e del suo ambiente, intuì che il più potente mezzo di rinnovamento delle parrocchie è e sarà sempre la devozione eucaristica. La contessina di Ars era una cristiana eccellente e di grande carità, ma non si può dire che fosse abbastanza fervorosa. La sua pietà era austera e rigida, essendole sino allora mancata una guida illuminata e sicura. Era, come ben si esprime suo cugino Giovanni Felice di Garez, una di quelle anime che ancora pativano l'influsso del secolo antecedente e che si irrigidivano e sterilizzavano nel rigorismo di Giansenio. Abituata ad una vita regolare, ma lontana dai sacramenti, a poco venne condotta da Don Vianney alla pratica della comunione frequente ed agli esercizi di una tenera pietà. Ora ascoltava la messa ogni giorno, recandosi alla chiesa sempre a piedi, anche in mezzo alla neve, perché preferiva vestire e nutrire i poveri che comperare la carrozza. Alla sera faceva ancora ritorno alla chiesa per la visita al Santissimo Sacramento. Alla contessina di Ars si aggiunsero poi altre persone di condizione più modesta che furono a fianco del curato Don Vianney, le operaie della prima ora, la vedova Claudina Renard, madre di un sacerdote, una donna di 60 anni di nome Lacan, da tutti creduta una suora, dice ingenuamente Caterina Lassagne, perché era vestita in nero o forse perché aveva passato un po' di tempo in una comunità, ed Antonietta Pignotti, che attirata dalla fama di santità dell'antico vicario di Écully, era venuta a stabilirsi ad Ars per edificarsi ogni giorno allo spettacolo di virtù ammirabili. Queste ne seppero guadagnare altre. Vi si aggiunsero anche le giovani che Don Vianney riunì nella confraternita del Rosario e le direttrici della Provvidenza, che vedremo presto all'opera. Così, dal 1825, prima ancora del grande concorso di pellegrini, oltre il santo, che passò, possiamo dire, tutta la sua vita davanti al Santissimo Sacramento, vi furono sempre nella chiesa di Ars delle persone in preghiera. Non mi ricordo di esservi mai entrato neppure una volta, assicura il maestro Pertinan, senza avervi trovato qualcuno in adorazione. La maggior parte di queste persone, sinceramente cristiane, che Don Vianney aveva acceso degli ardori della sua propria carità, queste anime buone seguivano le vie mistiche senza saperlo. Nelle loro lunghe visite al Santissimo Sacramento non dicevano molte parole, ma si sentivano così felici d'essere là. Anima mia, sembravano ripetere, usando le parole medesime dell'asceta inginocchiato, raddoppia l'ardore. Sei sola ad adorare il tuo Dio. I suoi sguardi si riposano su te sola. In quel tempo, senza che il curato dapprima se ne accorgesse, un bravo contadino di Ars di nome Sha Fangjeong aveva seguito l'esempio di quelle donne. Già membro dell'antica confraternita del Santissimo Sacramento, fino a quel giorno non si era distinto dalla folla, accontentandosi d'avere un cero in mano alle benedizioni e nelle processioni. Era un uomo di profonda fede, un po' smarrito come Giobbe o Tobia in mezzo ai gentili, e si lasciò guadagnare dall'esortazione del suo pastore. Ascoltiamo piuttosto il curato d'Ars raccontare questo commovente episodio. In parrocchia viveva allora un uomo morto ormai da alcuni anni. Entrato un mattino in chiesa per recitare le sue orazioni, prima di andare nei campi a lavorare, lasciò la zappa fuori dalla porta e davanti a Dio si dimenticò del passare del tempo. Un vicino, che lavorava presso il suo campo e che era solito vederlo al lavoro, fu meravigliato della sua assenza e al ritorno volle entrare in chiesa, sospettando che fosse là. Difatti lo vide subito, gli si avvicinò e gli chiese: «Che fai qui tanto tempo?» E l'altro rispose: «Io guardo il buon Dio e il buon Dio guarda me». Il santo amava ripetere questo fatto e lo faceva sempre con lacrime. Dopo il racconto aggiungeva: «Egli guardava il buon Dio e il buon Dio guardava lui. Sta tutto qui, miei cari, per attirare i giovani e gli uomini». Vedeva chiaramente che solo dal giorno in cui sarebbe riuscito a guadagnare i giovani e gli uomini della sua parrocchia ci sarebbe stata la pratica assidua della religione. Il fondamento è il culto eucaristico e per avviarli su questa via non introdusse nulla di nuovo, ma si limitò a dare novella vita alla confraternita del Santissimo Sacramento, che fino allora esisteva pressoché solo di nome. Anche gli uomini, diceva, hanno un'anima da salvare, come le donne. Sono i primi in ogni opera. Perché non devono essere i primi anche a servire Dio e a rendere omaggio a Gesù Cristo nel Santissimo Sacramento dell'altare? La devozione stessa, attraverso il loro esempio, ha più influenza. E non dimenticate, aggiungeva parlando ai membri dell'Associazione Eucaristica, che come confratelli siete obbligati a condurre una vita più perfetta degli altri cristiani. Ma diciamolo subito, con gli uomini e coi giovani d'Ars, il curato non ottenne il successo che si riprometteva, e di questo era forse causa lo stesso suo zelo, che richiedeva troppo in un terreno non ancora preparato. Così si comprende facilmente perché non sia riuscito a condurli alla visita quotidiana del Santissimo Sacramento, secondo quanto era scritto negli statuti della confraternita. Questo costava assai a persone occupate il giorno intero nei lavori della campagna. Non consta che il buon Chaffangion abbia avuto perfetti imitatori. Ciò nonostante, lo scopo dell'istituzione fu sufficientemente raggiunto quando gli uomini di Ars si recarono regolarmente e senza eccezioni alle funzioni domenicali, con quel contegno irreprensibile che fu l'ammirazione dei pellegrini. E quando si vide un certo numero di essi passare dopo i vespri un'ora davanti al Santissimo Sacramento esposto, non ebbe tempo di ben organizzare il Corpus Domini del 1818, che riuscì come una festa comune, ma per il Corpus Domini del 1819 tutto dispose perché riuscisse con la pompa più solenne. Sostenne considerevoli spese per ottenere vestiti bianchi per i fanciulli della parrocchia. «Su, ragazzi», diceva, aiutandoli egli stesso a indossare la loro tunica, «pensate che siete davanti al Signore e che tenete il posto degli angeli». Nessuna meraviglia che i fanciulli del villaggio siano stati contenti di sostenere durante la processione una simile parte. Gli uomini invece parvero meno entusiasti di rappresentare la Chiesa militante. Ancora schiavi del rispetto umano, molti trovarono difficoltà ad accettare una candela da portare dietro il baldacchino. Non c'era obbligo di coscienza di seguire questa pratica, e secondo quanto viene tramandato dai registri della parrocchia, dal 1824 al 1839 solo la quinta parte dei confratelli si mostrò fedele a questo impegno. Alla confraternita del Santissimo Sacramento, che era stata eretta solo per gli uomini, si unirono poi donne e giovani, le quali furono più premurose. Al contrario, particolare abbastanza curioso, vi furono giovani e uomini che ottennero di essere iscritti nella confraternita del Santo Rosario, eretta solo per le donne, ma con statuti più facili da osservarsi. Così pure, quando il 17 dicembre 1845 il curato iscriverà la sua parrocchia nella Arciconfraternita di Nostra Signora delle Vittorie, eretta a Parigi per la conversione dei peccatori, ben 60 tra uomini e giovani domanderanno di farne parte. Questa devozione non esigeva dai membri che un'Ave Maria quotidiana, e di più, anche questo è doveroso notarlo, era particolarmente cara al curato, che allora già godeva fama ed autorità incomparabili. Per cristianizzare le famiglie. ma egli prevedeva che nelle opere parrocchiali non si riunirebbe che una elite della popolazione ed escogitò nuovi mezzi per esercitare la sua influenza benefica anche sulle altre anime. Era necessario abituare ogni famiglia ad una vita cristiana intensa e solida. Se non era possibile ottenere da quei contadini che dovevano guadagnare il pane quotidiano che assistessero alla Santa Messa durante la settimana, perché non sarebbe stato possibile ottenere che recitassero le preghiere in famiglia mattino e sera e che alla fine della giornata passassero un momento in chiesa prima del riposo della notte? Purtroppo verso il 1818 in Ars quasi non si pregava. Bisogna leggere a questo proposito i lamenti del povero nuovo pastore. Poiché le famiglie avevano abbandonato la bella abitudine della preghiera in comune, il giovane curato si industriò dapprima di far ritornare il suo popolo all'antica tradizione e più tardi, con passo naturale, penserà a trasformare questa preghiera privata in un esercizio pubblico. Ci avviciniamo al tempo nel quale ogni sera, al richiamo della campana, la grande famiglia parrocchiale si incamminerà verso la chiesa per recitare il rosario e la preghiera della sera. Non contento di questo, si sforzerà di far praticare a questi umili contadini anche devozioni meno comuni, ma che sono un prezioso completamento della pietà, come l'esame di coscienza quotidiano e, prima di coricarsi, una breve lettura spirituale, almeno durante l'inverno, per imprimere più profondamente nei cuori le verità della salute eterna. Non pensò mai che i contadini, occupati nei loro lavori di campagna o fra mestieri manuali, fossero incapaci di vera vita interiore. E da semplici uomini del popolo, sempre a contatto con la natura che è il migliore libro di Dio, insegnò il segreto della meditazione e della preghiera. Miei fratelli, non sono né le preghiere lunghe né le preghiere belle che Dio preferisce, ma quelle che vengono dal cuore. Nulla vi è di più facile e di più consonante che pregare il Signore. Ad anime più delicate, che troverà nella folla, i santi sono santamente audaci, farà brillare davanti allo Spirito altezze mai intraviste. Non conosce due vie, una per sé ed una per gli altri, per sviluppare la vita spirituale. Per l'indirizzo delle anime privilegiate gli basta lasciare libero sfogo alla piena dei sentimenti del suo cuore. Quando si ama qualcuno non si ha bisogno di vederlo per pensare a lui. Così, se noi amiamo Dio, la preghiera ci diventerà familiare come il respiro. Ah, come mi piacciono queste parole dette al mattino. Oggi voglio fare tutto, soffrire tutto per glorificare Dio. Niente per il mondo o per l'interesse, ma tutto per piacere al Signore. Così l'anima si unisce a Dio, non vede che Lui, non agisce che per Lui. Diciamo spesso, mio Dio, abbiate pietà di me, come il bambino dice alla madre, dammi la mano, dammi il pane. Quando abbiamo un qualche peso da portare, pensiamo subito che seguiamo Gesù Cristo, che porta la croce, ed uniamo le nostre pene alle pene del Divin Salvatore. Molti suoi parrocchiani prenderanno queste parole alla lettera e saranno di ammirazione ai pellegrini che sulle vie di Ars potranno contemplare la serenità dello sguardo e la pace profonda di anime costantemente unite a Dio. Le missioni nei dintorni. Anche molte parrocchie dei dintorni poterono godere del beneficio di questi insegnamenti. Il dovere e la carità legavano Don Vianney alla sua parrocchia. La carità e il dovere lo obbligarono ad allontanarsene di quanto in quando. Attorno al 1820 erano lungi dall'essere riparate le rovine morali accumulate dalla rivoluzione. Quanta ignoranza ancora, quanti pregiudizi e quanta corruzione un po' dappertutto. Sembra che la regione dell'Ain, che faceva parte dell'arcidiocesi di Lione, ne abbia patito più di ogni altra. Tristi simboli di anime abbandonate, i campanili abbattuti un tempo dal rappresentante Albitt non erano stati ricostruiti quasi in nessun paese. Durante il periodo di 30 anni, tutto il territorio compreso nell'antica diocesi di Belley non era avuto che una sola volta, nel 1813, la visita dell'arcivescovo di Lione, suo capo spirituale. Per la scarsità numerica di clero, molte fra le piccole parrocchie di questa regione erano rimaste senza pastore. E questo probabilmente sarebbe successo anche nel piccolo villaggio d'Ars se non ci fosse stata la felice influenza della famiglia Garetz. Come riuscire a scuotere l'indolenza di anime già da troppo tempo trascurate? Si pensò di dare corsi di missioni nei diversi villaggi, con la partecipazione del clero in cura d'anime, in aiuto dei certosini di Lione che, chiesti ovunque, erano insufficienti a provvedere alle diverse parrocchie. Fu per questo motivo che anche il giovane Don Vianney fu chiamato ad esercitare nella maggior parte delle parrocchie vicine l'ufficio di predicatore e di confessore. Partecipò alle missioni o ai giubilei di Trevaux, di Saint-Trévier-sur-Morgin, di Montmerle, di Chanens, di Lima, di Saint Bernard, sempre con gioia e sollecitudine, seguendo l'ordine del suo vescovo o il semplice invito di un confratello. I preti che lo videro all'opera dapprima avevano forse potuto dubitare della sua scienza e del suo ingegno, ma non tardarono ad avere per lui la più alta stima. L'austera sua vita, la sua viva pietà e, chi lo crederebbe, anche la sua pur semplice eloquenza, finirono per attirargli la confidenza, se non l'ammirazione, di tutti. Nella grande missione che si predicò a Trevaux dal 9 gennaio al 24 febbraio 1823, egli ottenne lusinghieri successi. La cappella ove egli confessava non era mai vuota. Aveva preso alloggio presso un antico condiscepolo di Verrier, il signor Morel, che teneva pensione. Alla sera quest'uomo aspettava invano per la cena. Per parecchi giorni di seguito, passata la mezzanotte, dovette andare a cercare in chiesa e lo trovava ancora occupato ad ascoltare i fedeli. La notte precedente alla chiusura della missione ci fu tale folla attorno al suo confessionale che per poco, nelle dispute per la difesa del proprio posto, non furono rovesciati confessionale e confessore. Fu il solo ricordo di Trevaux che Don Vianney si permise di raccontare e ne rideva allegramente, nascondendo ad arte il grande concorso di gente, avida della sua direzione e le conversioni dovute al suo zelo. I signori della sottoprefettura e del tribunale si erano rivolti a lui per affari della loro coscienza, ed egli compì il suo ministero delicato senza alcuna preferenza, con il vero spirito indipendente di un apostolo. Il sottoprefetto non parlava poi di lui che con grande ammirazione, e quantunque magnificasse la saggezza e la dolce insistenza dei suoi consigli, constatava con sentimento di tristezza sottomessa e rassegnata che il curato d'Ars era stato intransigente a proposito delle veglie e dei balli della sottoprefettura. Epoca privilegiata quella in cui i sottoprefetti andavano a prendere le direttive da un santo. In quei tempi era usanza che al termine della missione ci fosse una cerimonia nella quale i sacerdoti, alla presenza dei fedeli, rinnovavano gli impegni assunti nel giorno della loro ordinazione. A Trevaux, Don Vianney fu incaricato di presentare il libro dei Vangeli a ciascun confratello con la domanda di rito: «Credi al Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo?» Ed egli lo fece con tanta pietà che la sua espressione e il suo tono di voce produssero in tutti i sacerdoti una profonda impressione. Quando il curato d'Ars si assentò per 15 giorni dalla sua parrocchia in occasione della missione di Saint-Trévier, la sua popolazione fu turbata dalla terribile notizia che il santo era morto di fatiche nel confessionale. Tale voce fu tosto smentita, ma non era senza ogni fondamento. Il santo era partito digiuno per Saint-Trévier e nel viaggio, smarritosi per la neve, era stato raccolto privo di sensi. Per confessarsi da lui si accorse dalle parrocchie vicine e ciò lo obbligò a recarsi alla chiesa molto presto e a restarvi fino a mezzogiorno. Poiché la chiesa era freddissima, si pensò di portargli uno scaldapiedi ed egli lo accettò per sentimento di compiacenza, ma lo mise tosto da un lato senza servirsene. A Montmerle, durante il giubileo del 1826, non vi era posto sufficiente alla canonica ed egli fu alloggiato in casa de Mondesert, in via dei Minimi, vicino alla chiesa ove vi era una veneranda sessagenaria che adempiva le funzioni di sacrestana senza alcuna retribuzione. Appena sistemato, il curato d'Ars pregò segretamente la sua domestica di fargli cuocere una marmitta di patate e di portarle nella sua camera. Dopo il giubileo, il parroco di Montmerle andò a ringraziare la sua benevola parrocchiana con l'intenzione di ricompensarla per le spese sostenute in favore del suo pensionato. «Oh, signor parroco, per un paio di coltri non c'è di che, ma gli avete anche dato da mangiare, alla canonica non è venuto. Qui non ha mangiato nulla, veniva solo per 5 minuti a mezzogiorno». A questo punto la domestica raccontò la storia della marmitta di patate. Saliti nella sua camera, si trovò la marmitta vuota, ben nascosta nel caminetto, e si comprese allora che il curato d'Ars, nei 10 giorni passati a Montmerle, quasi senza lasciare la chiesa, non si era cibato di altro che di quelle patate. Il parroco di Montmerle domandò informazioni in paese. Il suo santo confratello non aveva ricevuto nulla per altra via. Al giubileo di Saint Bernard solo il curato d'Ars si presentò in aiuto del parroco e tutti vollero confessarsi da lui. Il parroco non si mostrò offeso per simile diserzione. Diceva ridendo a dei confratelli che vennero a fargli visita: «Ho un buon operaio, lavora molto e non mangia niente». La popolazione accorse in massa ad udirlo ed i vignaiuoli stessi e i lavoranti delle fattorie, per nulla perdere delle sue prediche, lasciavano le loro occupazioni e correvano alla chiesa. «Se dovremo pagare il tempo perduto», dicevano ai padroni meravigliati, «lo pagheremo». «Ma anche noi vogliamo sentire il prete d'Ars». A Saint Bernard operò così un bene considerevole e duraturo. Verso la stessa epoca il parroco di Limas lo invitò a predicare le 40 ore. Là, raccontava più tardi il nostro santo, «mi hanno giocato un bel tiro. Io mi scusavo dapprima di non poter accettare, sentendomi incapace di parlare ad un uditorio distinto, ma il parroco insisté, spiegandomi che si trattava di una parrocchia di campagna e finii per accettare. Ma quale non fu la mia meraviglia quando, entrando nella chiesa, vidi il presbiterio pieno di preti e la chiesa stipata di persone di ogni condizione. Mi lasciai dapprima impressionare, poi cominciai a predicare sull'amor di Dio e pareva che non andasse male. Piangevano tutti. Naturalmente, prima di lasciare Ars per queste opere di ministero in altre parrocchie, Don Vianney aveva cura di provvedere al servizio della parrocchia, pregando un parroco vicino, generalmente quello di Savigny, a 2 chilometri di distanza, che all'occorrenza lo supplisse. Del resto, ogni settimana faceva ritorno presso il suo caro gregge, passando sempre in mezzo ad esso l'intera domenica. Durante la missione a Trevaux, in pieno gennaio, finite le confessioni, faceva a piedi, per strade difficili e nella notte buia, le 2 lunghe leghe che lo separavano dalla sua parrocchia. Spesso il sindaco Mandì, preoccupato per il suo santo curato, al sabato gli mandava il figlio Antonio perché lo accompagnasse nel ritorno. Antonio Mandì, parlando di questi viaggi, ha detto: «Anche fra la neve e col freddo dell'inverno, di raro seguivamo la via migliore e più corta, perché il curato aveva sempre qualche ammalato a cui portare le consolazioni del suo ministero. Il percorso però non mi parve mai lungo, perché il servo di Dio sapeva renderlo attraente raccontando fatti pieni di interesse della vita dei santi. Se qualche volta facevo notare il freddo intenso e le difficoltà delle strade, aveva sempre pronta questa risposta: "Amico mio, i santi hanno sofferto ben di peggio. Offriamolo al Signore". Finite queste conversazioni spirituali, si recitava il rosario. Conservo tuttora il ricordo edificante di quelle sante conversazioni. I servizi resi ai suoi confratelli. Il curato Vianney, che in tutta la sua vita sacerdotale non fece mai un solo viaggio di puro piacere, quando si trattava di rendere servizio ai suoi confratelli, in molte circostanze si sottopose a disagi, anche negli ultimi anni della sua vita. Poiché per spirito soprannaturale non si rifiutava per nulla, lo si trovava buono per tutto. Si lasciò sfruttare per il bene come fanno i santi. Si ha meno riguardo, come dice una giovane santa, nell'usare di coloro che sono sempre servizievoli. Quando una parrocchia si rendeva vacante, come successe per Rancé e Saint-Jean-de-Tourigny, il curato Vianney veniva incaricato dell'assistenza interinale. Quando poveri parroci, vecchi ed infermi come quelli di Villeneuve e Miserier, non potevano bastare ai bisogni delle anime a loro affidate, Il loro confratello Dars spontaneamente si metteva a loro disposizione, pronto a correre al primo invito, sia di giorno che di notte. Di notte andò a visitare malati non solo a Rancé e a Saint-Jean-de-Tourigny, ma anche fino a Savigny e ad Ambarié nella Dombe. Quando lo si chiamava la domenica, partiva immediatamente dopo la messa, senza neppure andare in casa, ed era di ritorno nel pomeriggio, ancora digiuno per il canto dei vespri. Don Giuliano Ducre, ex superiore del seminario minore di San Giovanni di Lione e dopo il 1808 parroco a Misérieux, Tossier, Saint-Euphémie e Saint-Dié-de-Formant, era divenuto insufficiente alla sua missione. Sembra che Don Vianney abbia conosciuto molto bene questo venerando vegliardo, che forse un giorno era stato l'amico dell'amato e rimpianto Don Balley. Ma qualunque sia la verità su questo punto, è certo, ed i registi di Misérieux ne fanno fede, che dall'aprile 1820 al maggio 1821 il curato Dars percorse molte volte i 3 chilometri che separano i 2 piccoli centri per battesimi, matrimoni, funerali nella parrocchia di Don Ducre. Un giorno dovette colarrecarsi per un funerale con un freddo terribile e dal ritorno aveva il viso quasi gelato. Altra volta, dopo di aver esercitato il suo ministero in eguali circostanze, fece ritorno di notte fra il fango e la pioggia, giungendo a casa in uno stato miserabile, ma non se ne lagnò minimamente, al contrario ne pareva contento. Un altro giorno, mentre lui stesso era molto sofferente, si recò a piedi a Savigny per confessare un melato e si trovò poi così debole che al ritorno fu necessario condurlo con una carrozza. Il medesimo caso si ripeté quando in una piovosa giornata d'autunno fu richiesto del suo ministero in una famiglia di Sanse. Ammollato fino alle ossa, tremante per la febbre, quando giunse in casa del malato fu costretto ad adagiarsi vicino al suo letto. Lo confessò in questa posizione. Al ritorno disse: «Ero più malato del malato». I registri di Savigny ci tramandano anche un altro fatto. Il 15 luglio 1823 si recò quivi a battezzare un figlio di Pietro Lassagne e di Francesca Thomas, del cascinale di Juiz, volendo onorare una famiglia che aveva relazioni di parentela con buoni cristiani della sua parrocchia. Era madrina Caterina Lassagne, che aveva allora 17 anni e che si preparava a diventare maestra nella scuola del suo villaggio natale. La sua vita intera fu spesa per gli altri senza risparmio, non arrestandosi se non davanti all'impossibilità. Una figliola della famiglia Bernard di Farenne, ammalata di cancro, desiderava prima di morire, come suprema consolazione, di vedere per l'ultima volta il curato Dars, del quale le narravano cose tanto meravigliose. Il giovedì santo del 1837, un semplice biglietto del parroco Dubois avvertì il curato Vianney del desiderio della sua giovane parrocchiana e il servo di Dio, che secondo il solito avrebbe passato in chiesa tutta la notte, partì tosto. Avendo però smarrito il cammino, giunse a Farenne, coperto di fango e sfinito. Non volle accettare nulla, neppure un bicchiere d'acqua. La fama della sua santità era già tanto grande che la gente del paese usciva in massa sulla strada per ammirarlo. L'umile prete, dopo di aver benedetta e confortata la povera ammalata, si affrettò a ritornare alla sua parrocchia, senza accettare la carrozza che si metteva a sua disposizione. Nel 1852, racconta Don Beau, parroco di Hassan, che per 13 anni fu il confessore ordinario del Vianney, caddi gravemente ammalato. Il mio confratello Dars venne a farmi visita. Era il pomeriggio del Corpus Domini l'11 giugno. Aveva fatto tutta la strada a piedi con un'opprimente calura dopo aver chiuso le sue funzioni in parrocchia con la processione del Santissimo Sacramento. E quanti episodi simili sono rimasti ignorati? Essi superano le forze umane ed hanno come sola ragione lo zelo spinto fino all'eroismo. E così, ha detto Caterina Lassagne, che il nostro santo curato si sacrificava per le anime.